I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Sono serviti 931 giorni, ma alla fine la legge che cerca di rendere più efficiente il processo penale è arrivata al traguardo. Una legge della quale si è detto molto, soprattutto in relazione alle intercettazioni, dove la cronaca di tutti i giorni rilancia lo scontro tra chi ritiene che questo provvedimento, che sarà attuato con un successivo decreto, finisca per limitare l'utilizzo delle intercettazioni, riducendo anche i fondi a disposizione dei tribunali, e chi invece valuta positivamente la stretta sulle intercettazioni irrilevanti e sul loro, diciamo, uso mediatico. In realtà questa legge è diventata una sorta di provvedimento omnibus sul processo penale. Si ritocca ancora la prescrizione, che si allunga perché i termini ora verranno sospesi per 18 mesi sia dopo la condanna in primo grado sia tra secondo grado e Cassazione. Per contro arriva la cosiddetta indagine breve per velocizzare i tempi per la richiesta di rinvio a giudizio o per l'archiviazione. Ci sarà più spazio per l'estinzione di alcuni reati come la diffamazione o la truffa se si paga un risarcimento, se si eliminano le conseguenze dannose del reato. Al tempo stesso però aumentano le sanzioni per alcuni reati ad elevato allarme sociale, dai furti in abitazione agli scippi. Ecco, forse il fatto di volersi occupare di troppe cose ha reso questa legge meno efficiente di quanto servirebbe a un processo penale in sofferenza come il nostro. Una legge che alla fine, dai magistrati agli avvocati, finisce un po' per scontentare tutti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Archiviata per ora la prospettiva di una fine anticipata della legislatura che avrebbe condotto alle elezioni politiche tra settembre e ottobre, dal Parlamento sembrano ora venire segnali per portare al traguardo dell'approvazione definitiva alcune leggi di sicura importanza. Ieri è toccato alla riformina del processo penale, oggi è stata la volta del decreto legge di aprile, approvato con la fiducia al Senato, un decreto nato per dare seguito alle richieste europee di una correzione da 3,4 miliardi di euro dei conti pubblici, ma che poi ha assunto i contorni e le dimensioni di una vera e propria legge di bilancio. Era nata come una manovrina e si è via via trasformata in una specie di manovra bis, con misure a tutto campo, dai rimborsi dalle compensazioni IVA fino all'addio agli studi di settore, dalla web tax ai nuovi voucher. Chiuso questo capitolo, ora però si guarda avanti. Per una decina di provvedimenti, di disegni di legge, il traguardo dell'approvazione finale potrebbe essere davvero a portata di mano, se non altro perché sono testi che hanno già ottenuto il voto di un ramo del Parlamento. Si va dalla legge sul biotestamento alle norme sulla concorrenza fino alla riforma del codice antimafia. Vedremo che cosa accadrà, però diciamo subito che è meglio non farsi troppe illusioni, come dimostra anche la zuffa che è scoppiata oggi al Senato in aula, dove tra le proteste di Lega e Movimento 5 Stelle si cerca di approvare la legge sul diritto alla cittadinanza per chi nasce in Italia. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.